известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. We cannot escape the truth. That is what he said. That is what Abraham Lincoln said. Fellow citizens, we cannot escape history. Amici concittadini, non possiamo sfuggire alla storia. Queste sono parole pronunciate tanti anni fa, 150 anni fa, poco meno, da Abramo Lincoln, che sono state ripetute in modo solenne, convincente, quasi imbarazzante per la commozione che hanno provocato, da Tom Hanks davanti al Lincoln Memorial ieri, in questa strana, intensissima, freddissima anche domenica, 48 ore prima dell'inaugurazione. Ma permetteteci, prima di passare ai fatti, alle storie grandi, enormi, quasi impressionanti, di cui parleremo a partire da oggi, di fare anche noi una piccola, modestissima inaugurazione, assai più informale, amichevole, quasi confidenziale per chi segue questo programma dal 5 febbraio 2007, quindi sono due anni circa che andiamo in onda. Pensate, una settimana dopo, anzi 8 giorni dopo l'inaugurazione di Jefferson Ming, il politico senatore dell'Illinois Barack Obama a Springfield, davanti al Campione di Springfield, pronunciò la propria intenzione di scendere anch'egli in campo per battersi per una improbabile rincorsa alla vittoria nelle primarie democratiche. È passato un mondo, è girato tante volte il mondo. Oggi ci ritroviamo oggi la vigilia, ma domani ci troveremo a festeggiare invece l'investitura, la inaugurazione della presidenza di Barack Obama, e questo programma è cresciuto, no? Correndo accanto, attraverso, a fianco di queste grandi storie, delle altre grandi storie che ha raccontato, con il suo proposito iniziale di proporre il XXI secolo in una interpretazione bipolare, quindi non solo la grande potenza americana che ha dominato il XX, ma anche quella emergente cinese, che proprio nel 8 agosto 2008, con le Olimpiadi di Pechino, in un certo senso cercava la legittimazione definitiva alla propria presenza, alla propria potenza sul piano globale. Il mondo ha continuato a girare, il programma ha continuato ad andare gioiosamente in onda. Abbiamo conosciuto l'elezione di un nuovo presidente americano, abbiamo imboccato una nuova annata, questo 2009, con grande interesse e con storie che si moltiplicano davanti ai nostri occhi, protagonisti vecchi e nuovi, grandi potenze, grandi ritorni, grandi apparizioni. Di tutto questo si occuperà Jefferson a partire da oggi. Infatti ha un nome diverso, da oggi si chiama Jefferson 2, l'arte della svolta. L'arte della svolta è il sottotitolo, perché quante sono le svolte che il mondo deve affrontare nel giro di pochi giorni, poche settimane, pochi mesi, certamente pochi anni. Si può parlare di politica, si può parlare di ambiente, si può parlare di pace, si può parlare di sanità, di educazione, di tolleranza e di quant'altro, ma insomma il mondo è di fronte a sfide multiple, e noi di queste proveremo a raccontarvi qualche brandello, qualche scheggia, come una piccola trasmissione radiofonica può fare, sempre mantenendo l'universo americano al centro delle nostre cronache, perché è il punto di partenza, il nucleo caldo anche del nostro interesse, della nostra competenza, ma poi andando a guardare, come si dice in questi casi, a 360 gradi tutto attorno, cercando i focus, le aree di crisi, i punti di interesse, le questioni emergenti, i dibattiti in corso, le guerre culturali. I have a dream that one day down in Alabama with the... Oggi è il Martin Luther King Day, e ricordate questa voce quando recitava: sogno che un giorno laggiù nell'Alabama, con i suoi razzisti rabbiosi, con il suo governatore dalle cui labbra sgorgano parole di interferenza e di annullamento, che un giorno proprio lì in Alabama bambine e bambini neri prenderanno per mano i bambini bianchi come fratelli e sorelle. Oggi ho un sogno, quando lo faremo echeggiare di villaggio in villaggio, in ogni stato, in ogni città, saremo in grado di far avvicinare il giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e pagani, protestanti e cattolici, potranno prendersi per mano e cantare il vecchio spiritual, finalmente liberi, grazie a Dio Onnipotente siamo finalmente liberi. Spacious skies for amber waves of rain, for purple mountain majesty. Jesse Jackson ha scritto sul New York Times ieri in un suo intervento giornalistico, questo veterano della politica americana ma anche della politica afroamericana, soprattutto della politica afroamericana, ha scritto che Martin Luther King sarebbe raggiante per l'elezione di Barack Obama alla Casa Bianca, ma non consentirebbe all'euforia del momento di eclissare il lavoro da fare che abbiamo davanti a noi, e indicherebbe queste sfide in termini biblici: dare da mangiare agli affamati, rivestire gli ignudi, niente più guerre. Questo è il modello che dovremmo adottare questa settimana e anche più avanti, ha scritto ancora Jesse Jackson. Dovremmo festeggiare l'elezione del nostro nuovo presidente, poi dovremmo tornare subito al lavoro per completare questo lavoro e rendere l'America un'unione ancora più perfetta. Oggi appunto è il Martin Luther King, ieri Barack Obama nella domenica, no, di antevigilia alla inaugurazione, la sua incoronazione, se mi passate questa parola, peraltro completamente fuori luogo, ha fatto una prima apparizione al Lincoln Memorial, molti di voi suppongo l'avranno vista in televisione, circondato questa volta dalle star del pop, del rock. C'è un bel articolo di Christy Keck sul sito CNN che dice: Obama, icona politica o icona pop, o forse entrambe? Interessante questa terza via, questa terza soluzione. Allora c'era la Beyoncé che sentiamo cantare America the Beautiful in sottofondo. Durante tutto il programma sentirete estratti musicali di questo curioso, particolare, solenne pomeriggio sul Lincoln Memorial, ma intanto invece ascoltiamo alcune delle parole, tradotte così a braccio, pronunciate ieri da Barack Obama in attesa poi del grande discorso di domani, quello annunciato come un discorso già destinato alla storia. Ladies and gentlemen, the President elect of the United States, Barack Obama. Hello, America. I want to thank all the speakers and performers today for reminding us. Obama dice: voglio ringraziare tutti gli oratori, anche gli artisti che ci stanno ricordando attraverso le canzoni, attraverso le parole, perché amiamo l'America. Io voglio ringraziare anche voi che avete sfidato il freddo, avete viaggiato tanto per arrivare fino a qua. Benvenuti a Washington, benvenuti a questa celebrazione del rinnovamento americano. In the course of our history, nel corso della nostra storia, solo una manciata di generazioni si sono viste chiedere un confronto con sfide così importanti come quelle a cui ci accingiamo. La nostra nazione è in guerra, la nostra economia è in crisi, milioni di americani stanno perdendo il lavoro, stanno perdendo la casa, sono preoccupati perché non possono più pagare gli studi ai figli o pagare quella montagna di conti sul tavolo della cucina, e soprattutto sono incerti riguardo al loro futuro, riguardo alle generazioni di americani a venire che dovranno rendere questo paese migliore, migliore per i propri figli e per i figli dei loro figli. It'll take more than a month or a year, and it will likely take many. Along the way there will be setbacks and false starts. È un discorso che ripercorre i toni, le parole, le espressioni, le promesse, perché queste Queste sono le ore della retorica a Washington, lì davanti al Lincoln Memorial, anche per Barack Obama sono le ore della retorica, sono le ore dei festeggiamenti, il programma è letteralmente impressionante, sono le ore delle grandi promesse. Barack Obama dirà sempre nel corso di questo breve discorso di ieri: sono qui davanti a voi, pieno di speranza come mai sono stato prima, che gli Stati Uniti d'America dureranno, che il sogno dei nostri fondatori continuerà nel tempo e continuerà a vivere dopo di noi. Queste sono le parole. Poi ripeto, domani a mezzogiorno arriverà il giuramento e questo discorso ampiamente annunciato, un discorso dove la motivazione probabilmente incontrerà l'ispirazione, e Barack Obama, con il suo Fido Favreau, il suo ghostwriter, l'uomo, il 27enne, pensate, gli discorsi del presidente degli Stati Uniti d'America li scrive un ragazzo, passatemi l'espressione, di 27 anni. Forse è un dato che dice molte altre cose in più di quante se ne potrebbero dire sulla America. Domani seguiremo tutto ciò con tutta una serie di iniziative di cui verrete informati attraverso la radio. Insomma, siamo quindi a un punto di svolta e siamo anche emozionati di ritrovarci qua, di ritrovare un nuovo presidente, un'America così energetica e pronta a ripartire. Se è vero che un sondaggio CNN di ieri dice che l'84% degli americani approva come Barack Obama ha condotto la transizione, e che un 68% degli americani, avete presenti i dati di gradimento di George W. Bush, il presidente uscente, su cui poi proporremo nei prossimi giorni una riflessione, ma oggi un 68% degli americani sottoscrive, afferma di sentirsi eccitato e felice per quello che sta succedendo. Lo Smart Power muoverà le proprie mosse a partire da mercoledì, ma come abbiamo detto, questi sono i momenti del festeggiamento, sono i momenti anche un po' della teoria, anche un po' della retorica, sono anche i momenti in cui gli artisti pop entrano a modo loro nella storia. Say come on! We are one! Yeah! All right! Come on! Keep on learning, soldier. Keep on. questa è la voce del vero titolare di questa canzone, ovvero Stevie Wonder, grassissimo ieri, è apparso proprio davanti a Lincoln, c'era dietro grande Lincoln, davanti grande Wonder, davanti ancora la nuova generazione, nella fattispecie Shakira e Usher, una star del rap americano, per questa che è una delle molte apparizioni. Poi appunto avete ascoltato Tom Hanks in apertura, così solenne nella sua evocazione lincolniana. Io ascolto i vostri messaggi, molti sono di auguri, vi ringrazio, vi abbracciamo tutti, tranquillizziamo coloro di simpatia o di interessi o di approfondimenti cinesi che restano naturalmente nel programma con tutta la rete, ma che siete matti, figurate se rinunciamo, non so, ad amici come Saro Capozzoli, Giuliano Noci, tanti altri che di Cina ci raccontano, ci parlano, ci descrivono, ci aiutano a capire. È probabile che ci aiuteranno a capire anche altre cose che stanno da quelle parti, anche un mondo nuovo più ampio che si può chiamare, che ne so, India, Giappone, Corea, che si può chiamare spostarsi per il pianeta come in un giardino, dove però ci sono tante trappole e tante buche. Quindi state pur certi, tornerà naturalmente, non se n'è mai andato anche Paolo, e chi lo conosce sa di cosa parlo. E grazie ancora degli auguri, 4 anni di concerti e lettere pubbliche mielose, scrive il puntuto Simo sentendo i discorsi di Obama, ma abbiamo detto, questi sono i giorni della retorica, poi saremo qua coi fucili spianati, state pur certo. E Joel chiede se anche un ragazzo italiano di 20 anni non può essere celebrato in queste ore, tale Gallinari Danilo, che finalmente ha messo la palla nei canestri nell'NBA, e noi lo accompagniamo fino quasi sull'orlo della retina. Ma adesso passiamo ad aprire uno degli spazi che rappresenta una delle piccole novità di questa nuova edizione di Jefferson. Express yourself. Allora, il titolo lo canta questo signore che imparerete presto a conoscere, Express Yourself, esprimetevi, dite la vostra, ed è la prima affiliazione, il primo prodotto, la prima conseguenza del fatto che abbiamo capito che insieme al programma sono cresciuti tanti, si sono raccolti attorno al programma tanti ascoltatori con la voglia di dire la loro, di dire le cose, spesso di grande originalità e interesse sui temi che proponiamo, e quindi è ora di aprire alcune porte a queste voci. Per questo abbiamo inaugurato una serie di siti Facebook, e c'è chi ci piglia in giro fra i nostri ascoltatori per il casino che abbiamo fatto subito appena cominciato. Adesso cerchiamo di mettere un po' d'ordine. Sappiate che a partire da oggi sono 2 i siti a cui fare riferimento. Uno si chiama Redazione Jefferson 2 ed è nient'altro che il vecchio sito che ha cambiato nome, ci abbiamo pensato noi, ma sempre lì finirete. E poi c'è anche una nuova bacheca che si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, che è la bacheca su cui si dibatte, si discute, ci si confronta. Quindi vi ricordo ancora Redazione Jefferson 2 e Redazione Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Attenzione, 2 va scritto in lettere perché così vuole Facebook. Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, la bacheca, Redazione Jefferson 2 per entrare in contatto con noi. Abbiamo proposto nel weekend un tema, cogliendolo dai vostri suggerimenti, la puntata del programma di Santoro, Anno Zero, che ha destato dibattito, arrabbiature per come ha destabilizzato i rapporti tra informazione, propaganda e spettacolo, no? Salta all'occhio come sia differente dalle regole ossessive della televisione americana. Vi abbiamo chiesto di ragionare. Così, tanto per provare su questo argomento, avete aderito in tanti, vi leggo qualcuno dei vostri interventi. Luigi scrive: seguo Newsweek e le news televisive americane, credo che la sostanziale differenza tra il nostro giornalismo e il loro è che da loro l'essere schierato non viene mascherato dai giornalisti, da loro un giornalista dichiara apertamente la propria posizione e poi commenta. Lorenzo scrive: credo che il vero dramma di Santoro Annunziata non sia la presa di posizione di una trasmissione, che ci può anche stare, ma la mancanza vera di un'informazione di contesto. Possibile che chi sia in grado di fare solo il talk show deve dare il senso degli invitati e quindi la lista degli ospiti che equivale alla linea editoriale? È possibile che sia così? Giulio: ero rimasto che i giornalisti dovessero fare informazione. Santoro ha perso un'occasione per far dialogare due parti. Forse non gli importava. Hermes: concordo, il problema è che Santoro sostiene di fare informazione obiettiva, quando invece fa informazione schierata e spesso propaganda pura. La CNN mi sembra abbastanza lontana da questi schieramenti. Luca: l'impressione è che Nunziata abbia voluto dare lezioni di TV a Santoro, il quale, avendo un ego delle dimensioni del dirigibile Hindenburg, non ha gradito e l'ha attaccata in modo provocatorio. Probabilmente un simile episodio su Fox o su CNN non si sarebbe verificato. C'è molto bon ton, ma anche una certa correttezza generale, al di là delle prese di posizioni assai convinte. Certo, lo spettacolo è stato tragicomico. Express yourself. On this spot, where we're standing, 43 years ago, 46 years ago, Dr. King had a dream. On Tuesday, that dream comes to pass. One man come in the name of love. One man come and go. One man comes, he to justify. One man to overthrow. In the name of love. One more. In the name of love. In the name of love. One more. In the name of love. One man caught on a barbed wire fence. One man. One man washed up on an empty beach. One man betrayed with a kiss. Bianca. Il passaggio di consegne. Il passaggio di consegne la sentirete ancora, no, non la sentite più da domani, non la sentite più questa sigletta. Il passaggio di consegne è avvenuto, il comando operativo, effettivo, esecutivo passa nelle mani Barack Obama e con esso un discreto pacchetto di problemini, diciamo così, perché siamo in fondo anche noi, no, un po' celebrativi oggi, uno dei problemi su cui in un certo senso Barack Obama si è sbilanciato di più nel corso della transizione, si chiama Guantanamo Bay, e sembra, è uscito, pare, si è detto, si è scritto, i ben informati hanno garantito che Obama potrebbe aver pianificato addirittura per mercoledì, primo giorno in ufficio, no? La firma di un ordine esecutivo per la chiusura del campo di detenzione di Guantanamo Bay a Cuba. Lo stesso Barack Obama ha detto però di aver capito che, cito le sue parole, sarà più difficile di quanto la maggioranza creda rimettere in libertà delle persone che potrebbero avere l'intenzione di farci saltare per aria. interrogativi sono tanti, ma il dibattito, non appena queste indiscrezioni sono uscite, è tornato a arroventarsi attorno alla questione Guantanamo Bay. È una delle è uno dei punti neri, dei coni d'ombra, perlomeno chiamiamolo così, della gestione Bush, 43esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Abbiamo in linea, in diretta, Carlo Bonini, l'inviato di Repubblica, che ha scritto tra l'altro sulla questione un libro importante intitolato Guantanamo, viaggio nella prigione del terrore, uscito qualche tempo fa da Einaudi. Buon pomeriggio, Carlo. Buongiorno a voi. Allora, proviamo ad aggiornare un po' insieme, se ci dai un contributo con la tua competenza sull'argomento, che cosa potrebbe succedere e soprattutto il dibattito, soprattutto tra giuristi e esperti americani, è esploso immediatamente. Insomma, che cosa fare, no, con quei detenuti giudicati troppo pericolosi per essere rimessi in libertà? Il team di Obama avrebbe rifiutato, pare, l'ipotesi di tirar fuori una nuova legge, di legiferare verso la legittimazione della detenzione indefinita senza processo negli Stati Uniti di queste, o di una parte di queste, 250 persone. Però per chiudere quel centro qualcosa bisogna fare. Sì, ma per quello che se ne sa, per quello, insomma, per quel molto, devo dire che, insomma, che poi lo staff di Obama ha lasciato filtrare nelle ultime settimane, verosimilmente il nuovo presidente si prepara un ordine esecutivo che decreterà la chiusura del campo di detenzione, la sospensione sine die dei processi attualmente in corso, dei pochi processi attualmente in corso, certo, e il trasferimento dei detenuti in strutture federali. Anche perché a questo punto, in questo modo, la nuova amministrazione appunto non avrebbe nessuna necessità di tornare a legiferare su questa materia, si tratterebbe sostanzialmente di chiudere un'anomalia da un punto di vista legislativo, dal punto di vista ovviamente dei diritti umani, del rapporto con il resto del mondo, del rapporto con gli alleati europei. Questo ovviamente comporterà delle difficoltà, cioè, insomma, l'ordine esecutivo di chiusura della prigione non significherà evidentemente la soluzione di tutti i problemi che quella prigione si porta dietro, non ultimo appunto il destino di questi detenuti. È pur vero che se l'Europa, come sembra, dovesse in qualche modo decidere, e gli alleati in Medio Oriente decidere di aiutare quella nuova amministrazione in questa operazione, accogliendo per esempio una parte di quei detenuti rispetto ai quali non esistono neppure i presupposti per un giudizio di fronte a una corte federale americana, allora la transizione potrebbe essere più breve. È evidente che se dall'Europa o dai paesi, diciamo, alleati degli Stati Uniti nell'area mediorientale questo aiuto non dovesse arrivare, allora le difficoltà potrebbero aumentare, perché ci potrebbe essere sicuramente una parte di detenuti che con Guantanamo chiusa non possono essere rimpatriati nei paesi di origine, certo, perché non... perché quei paesi non intendono accoglierli di nuovo, perché gli Stati Uniti non intendono estradarli in quei paesi, e allora, come dire, si potrebbero creare dei problemi all'interno, diciamo così, del circuito legale americano. Però insomma, ripeto, credo che la strada sia sufficientemente definita, e tutto sommato non è necessario neanche questo grande lavorio, diciamo, giuridico. Quindi tu pensi si può fare, ma per potersi fare non pensi che bisognerebbe arrivare una volta per tutte a una definizione che credo a tutti gli effetti non sia mai stata sancita, cioè che cos'è la war on terror, la guerra al terrore istituita dalla precedente amministrazione, insomma, che resta un po' un ibrido, no? Che non si capisce poi se obbedisce per esempio alla legge marziale, alle leggi di guerra o alla giustizia ordinaria. È quello in fondo il punto di partenza, credo, no? È assolutamente quello. Insomma, l'amministrazione ormai uscita di scena aveva coniato per i detenuti di Guantanamo questa categoria sconosciuta al diritto occidentale, esatto, e allo stesso diritto anglosassone, che era quella dei combattenti nemici. Una categoria che peraltro è stata, diciamo, in qualche modo messa in dubbio anche da un punto di vista della legittimità della stessa Corte Suprema americana. Perché è una specie di terza via, in sostanza. Perché sì, era una sorta di terra di nessuno, perché poi il combattente nemico godeva soltanto di alcuni dei diritti riconosciuti ai prigionieri di guerra dalla convenzione, dalle convenzioni internazionali, prima su tutte la Convenzione di Ginevra, ma non godeva invece, diciamo, della pienezza di quei diritti che vengono riconosciuti normalmente a un prigioniero di guerra, ad esempio, come dire, anche il diritto a essere rimpatriato immediatamente nei paesi di provenienza una volta terminato il conflitto, oltre a quello di essere trattato secondo le regole. Cioè, il guerrigliero terrorista di Al-Qaeda non è come il soldato tedesco italiano della Seconda Guerra Mondiale. Infatti il problema è esattamente lì, cioè in qualche modo essendosi imbarcati da un punto di vista formale gli Stati Uniti in una dichiarazione di guerra, in una guerra che tolto, diciamo così, i teatri di Afghanistan e Iraq, non ha avuto nulla di convenzionale, non ha nulla di convenzionale, si parla infatti di guerra asimmetrica, non è una guerra tra stati, quindi è evidente che quella categoria era figlia anche di questa anomalia. Ora, se come io immagino, credo, Obama darà corso nei primi 100 giorni della sua presidenza alle nuove linee di politica, anche di politica estera che ha ampiamente annunciato durante la sua lunghissima campagna elettorale, credo che da questo punto di vista anche questa anomalia giuridica potrà essere facilmente sciolta, e quindi in qualche modo quei pochi oggi, cioè la tua convinzione è che si arriva a una definizione in tempi ragionevoli del problema, cioè si chiude Guantanamo? Io credo proprio di sì. Tra l'altro, insomma, poi la storia è, da questo punto di vista è singolare. Guantanamo chiuderà negli stessi giorni in cui dopo anni per la prima volta in quell'isola arrivano poi a processo gli autori i sopravvissuti dell'11 settembre. Certo. Quindi sembra quasi, diciamo, è un contrappasso, no? Dopodiché io credo però che appunto Obama, che da questo punto di vista poi deve fare anche attenzione a quel pezzo di paese che non l'ha votato e che continua, come dire, a sentirsi minacciato. E poi forse possiamo dire che deve fare anche attenzione a, come dire, a non gettare alle ortiche comunque un certo lavoro di intelligence, un grande lavoro di intelligence che è stato fatto. Sì, ma non solo, ma poi appunto non può fare a meno di considerare il senso, o tuttora il senso di profonda insicurezza che attraversa il suo paese. Io credo che per esempio alcuni di questi processi arriveranno a un giudizio, solo che non arriveranno a un giudizio di fronte a quella che non è neppure una corte marziale, ma una corte militare speciale, probabilmente invece andranno a giudizio di fronte a una normalissima, a una regolare corte federale. Voglio dire, probabilmente gli autori dell'11 settembre, i sopravvissuti, accusati di essere tra gli architetti dell'11 settembre, torneremo a vederli alla sbarra, però in un processo aperto al pubblico, di fronte a un giudice federale con alle spalle la bandiera americana e accanto il normale codice di procedura penale con il quale vengono giudicati tutti i cittadini americani. Va bene, grazie. Ti ringrazio Carlo Bonini che ci ha dato questo punto di vista su una scadenza che, come vi dicevo in apertura, è estremamente ravvicinata. Adesso non so se mercoledì, ma certamente nei primi giorni della presidenza il neo presidente dovrà onorare, no, le promesse fatte, e vedremo se questa firma sotto un decreto di chiusura, un ordine esecutivo di chiusura di Guantanamo arriverà o no. the house this morning. Bells ringing filled the air. I was wearing the cross in my coat. On the wheels of fire. Gradi News dai punti sensibili del pianeta. Ma qua è tutto uno sfrigolare di nuove siglette, cari ascoltatori. Dovete abituare, anche noi ci dobbiamo abituare, Emiliano, ai nuovi suoni. Ne partono sì. Una via l'altra. Bene. Aria nuova, grazie alle infinite mail, lettere, letterine e incoraggiamenti che ci arrivano. Io vi ricordo ancora, ce lo chiedete, gli indirizzi. Jefferson, redazione Jefferson 2, 2 si scrive in parola per contattare noi, e Jefferson 2, 2 si scrive in parola, Radio 24, Express Yourself, è la bacheca dove si discute. E la sigla di coda ve lo posso già preannunciare? No, ma ve lo preannuncio, vai. È una sorpresa, una sorpresa. Allora, in questo nostro giro per 360 gradi per il mondo, restiamo però anche a guardare con un occhio puntato sulla Cina. Vi riferisco un'amabile conversazione che ho avuto ieri con il nostro amico Luigi Guarda, uh-huh. Uno dei nostri occhi sintonizzati sulla Cina da tanti anni. Lui fece parte della prima delegazione italiana che andò in Cina nel 79, quando ancora non esisteva l'ambasciata italiana a Pechino. Un veterano che continua ad andare con grande successo. Allora, intanto, cosa importantissima, credo che tra oggi, forse già domani, incontrerà Paolo a Shanghai, quindi ci potrà informare dal vivo di novità sul caso più interessante, direi, di questa storia, perlomeno in salsa cinese di Jefferson Ming. Poi ci sono due notizie in particolare che stanno circolando in Cina in questo momento. Una riguarda Obama, perché c'è grande attesa, grande curiosità anche da parte del popolo cinese. Piace soprattutto, mi ha spiegato Guarda, l'idea di un presidente giovane, dinamico come quello cinese. E poi c'è la storia del fratellastro di Obama che vive in Cina, che è Mark, figlio di terze nozze del padre. Questo Mr. Obama padre deve essere stato nato un ragazzo in Kenya, ma poi vivace. Cresciuto a Shenzhen, dove fa tante cose, ha una società di internet, insegna anche pianoforte ai bambini dell'orfanotrofio, quindi c'è anche l'elemento strappalacrime in questa storia di Mark, che tra l'altro credo che sia partito per Washington, vuole esserci anche lui, lì il giorno dell'inaugurazione. Mi fratello presidente. Per ora sappiamo che ha mandato in perfetto mandarino un SMS al fratello per congratularsi dopo la vittoria di novembre. E poi invece, caro Stefano, qual è la notizia dall'Italia più discussa in Cina in questo momento? Sempre no, il pallone. 22 uomini in mutande. Sì, il caso di Kakà, questi oltre 100 milioni offerti al Manchester City per il fuoriclasse del Milan, se ne discute anche in Cina. Guarda, poi a milanista mi ha detto: ma liberiamoci di Kakà, che forse è un bene. Però i cinesi sono molto interessati alla vicenda, perché fa scalpore anche a quelle latitudini. Dunque, aneddotica presidenziale, vi racconto quella del fogliettino, che è una delle novità, tra l'altro, attenzione, le telecamere, abbiamo un Barack Obama, giubbotto di pelle, camicia bianca sbottonata, la Fox non se ne perde uno di Obama, tutti un po' stilisti, dunque versione molto casual. Barack sta entrando in un centro di assistenza sociale, ricordatevi oggi è il Martin Luther King Day in America, e ha deciso di passare il giorno prima, l'ultimo giorno prima della presidenza, andando a spasso per la città. Lui ha detto che vuole restare in contatto, non vuole entrare in una bolla, no, che lo distacchi dal mondo reale. È in questo community center e mangerà lì insieme ai Bidens, ci sono gli Obamas, i Bidens, i Sopranos, tutte le famiglie che crescono, che prosperano. C'è l'audio, sentiamo un audio. Questa è la signora che la signora del centro gli sta facendo vedere i locali, come si dice, sullo sfondo alcuni agenti di sicurezza, ma neanche tanti. E tra l'altro ci ricorda un gentile ascoltatore che stasera sulla 7 c'è W, il film di Oliver Stone su George W, presidente 43, dice: pensa possa darci un'idea di cosa sia diventata l'America a causa dell'inquilino uscente? La risposta è no, secondo me, però al tempo stesso io il film lo guarderei. C'era l'idea di Oliver Stone, che è un'idea sempre molto angolare, ma io il film lo guarderei sicuramente. dicevo del fogliettino, i presidenti quando se ne vanno è tradizione ormai da parecchi mandati che lasciano sulla scrivania il fogliettino per quello che arriva, per quello che arriva dopo. Gli dicono auguri, in bocca al lupo, tanti saluti ai figli maschi. L'hanno fatto in tanti, l'ha fatto Reagan che scrisse buona fortuna a George Bush padre, lo ha fatto lui George padre con Bill Clinton, che l'ha fatto poi con Bush figlio, e quasi sicuramente Obama troverà il famoso fogliettino. Io lo vorrei vedere. Ma poi questi fogliettini vengono archiviati? Chissà quanto valgono i fogliettini. Chissà da che parte. Intanto io voglio il trench di Obama, che è bellissimo, me lo voglio comprare su misura. Allora, visto che dobbiamo allargare un po' l'orizzonte del nostro programma, una brevissima notizia sull'India, che è una delle grandi potenze emergenti, forse già emersa, seppure anche in India ci sono tantissime contraddizioni diverse dalla Cina, ma pur sempre importanti. Parliamo anche qui di un paese sul miliardo di abitanti. La terza potenza asiatica dopo Giappone e Cina punta nel 2030 l'India ad arrivare alla produzione incredibile di 60.000 megawatt di energia nucleare. Lo dice l'inviato speciale del primo ministro indiano, si chiama Shyam Saran, e l'obiettivo è quello di arrivare nel 2030 a produrre, grazie all'energia nucleare, il 10% di tutta l'energia elettrica dell'India, quindi stiamo parlando veramente di obiettivi stratosferici, non so dire se buoni o cattivi. Allora, se volete stare dentro la notizia ma vi sentite molto giovani con molte G, potete sintonizzarvi invece su MTV, che trasmetterà stanotte lo speciale Be the Change a partire dalle 22 domani lo speciale Be the Change, in pratica il ballo per ragazzi. Sapete che tutta Washington sarà letteralmente costellata di grandi balli domani sera. Credo siano una decina quelli organizzati, sono un bel po', guarda. Sono bellissimi, Peace Ball, quello della pace, dei diritti umani, quello porpora, quello della musica americana, quello dell'Africa. E tutti sperano che Obama balli un po' più di Bush, che non è un grande ballerino. Saluto che Obama ci vada al loro ballo. Domani si comincia alle 8 ora di Washington, quindi alle 2 del pomeriggio, alle 10, cioè aspettano che apra Jefferson 2, naturalmente. Beh, giustamente ci chiamano. Quando noi faremo il segno a Obama, aprono poi la vera e propria inaugurazione, che si protrarrà per un paio d'ore, comincerà la banda dei Marine, poi ci sarà un coro, ve li faremo, se non state buoni ve li facciamo sentire tutti. Poi arriva Dianne Feinstein, un personaggio politico di gran peso, a fare il benvenuto ai convenuti, vari milioni saranno lì. Poi il molto discusso reverendo Rick Warren farà la benedizione sulla nuova presidenza. Poi si fa una cantatina a Aretha Franklin, perché l'aria che tira è questa. Poi John Williams, grande musicista, darà la temperatura emotiva del tutto. E poi Obama will take the oath of office, come dice il comunicato ufficiale. Obama giurerà, si prenderà carico della presidenza mettendo le mani, niente meno. A che ora questo esattamente non si sa. Dovrebbe essere a mezzogiorno, mettendo le mani, comunque questa è sulla Bibbia, pensate un po', di Abraham Lincoln. Eccola! Vi volevamo stupire con effetti speciali e con sigle, che so, polinesiane, no? 360 gradi. Poi abbiamo detto no, Vivian no, non si tocca. Anche perché le richieste continuano e molti ascoltatori ci scrivono, ci chiedono di avere indicazioni su questa canzone che credo solo noi proiettiamo, mandiamo in onda nell'emisfero occidentale. Lo slogan è uno solo: giù le mani da Vivian su. Jefferson 2, l'arte della svolta. Stefano Vistolini in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi, Jefferson Minghe. Questa è ancora la posta vecchia, ancora dobbiamo cambiare. Dobbiamo aggiornare. Adesso arriva il lavoro in corso, ragazzi. Invece sono in funzione i due siti su Facebook, redazione Jefferson 2, che si scrive in parola, la bacheca, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, perché Express Yourself è il nostro slogan per ripartire. Andiamo in replica, sappiatelo, da oggi a mezzanotte, ore 24, per ascoltatori molto notturni, altrimenti in diretta, come sempre, alle 4 del pomeriggio. Ci ritroviamo qua su Radio 24. Sì.